eterno Dio, dunque scintilla ancora la faccia di Davide, dove s'asconde, guidami al nostro re. Trasporti, ecco l'oggetto, per cui più dell'usato sollecito mi veri. Come rinasce oggi il reale erede? A me consorte, sai che già sarà, ad occasia germana, a lei dobbiamo nostro re. Come? I crudel di genio inteso la taglia, forse già stava disperato alla reggia, e già compita la tragedia trovò. Suon fuor di me, quando si piange estinta, quando par che si lasci in abbandono la stirpe di Davide. Eccola in trono.